Ad alta voce, Sandro Lombardi legge Le terre del sacramento di Francesco Iovine. Quarta puntata. L'ultima settimana che Enrico era rimasto a Calena era stata una triste settimana per Clelia. Suo cugino, una sera, era stato a trovarla in camera. Era entrato al buio, si era cacciato sotto le coperte senza rivolgerle la parola e aveva cercato il suo corpo con un amplesso rapido. Lei si era sottomessa senza partecipare, con intima rivolta. I rapporti con Enrico erano rimasti nella mente della ragazza per alcuni anni in un'atmosfera inquietante tra il peccaminoso e il tenero. Clelia sapeva l'indole variabile di Enrico, quel suo vagare tra impulsi generosi, abbattimenti e violenze improvvise. Sapeva che in fondo alla sua anima c'era un nucleo di tristezza che non riusciva esattamente a capire, ma che si rivelava talvolta nei loro patetici colloqui notturni. Enrico ricordava cose lontane, faceva programmi per l'avvenire, pensava a una vita raccolta, serena, chiusa in una sfera di pensieri altissimi di cui lei intuiva solo vagamente la nobiltà. Talvolta Clelia, nei momenti più tranquilli, aveva creduto di intravedere la possibilità di una esistenza comune in cui lei, diventata più saggia, avrebbe potuto avere una parte fondamentale di amica e di madre. Senza che osasse dirselo chiaramente, la speranza che la sua irregolare condizione potesse cambiare le viveva nell'animo e la consolava nei periodi di solitudine. Quando rimaneva unica responsabile dell'andamento della grande casa, pensava sempre che Enrico sarebbe tornato dal suo viaggio col proposito rafforzato di dare diverso indirizzo alla sua vita. Attendeva alle faccende con la solita diligenza. Non riusciva a capire l'intrico dei debiti, delle ipoteche, delle controversie riguardanti il feudo del sacramento. Le piaceva pensare che una volta o l'altra intorno a casa Cannavale non sarebbero rimasti se non i piccoli poderi del frassino e della favaia. Liberati dai debiti, questi poderi sarebbero divenuti patrimonio modesto, ma tranquillamente governabile per una buona famiglia. Era quello il patrimonio che lei si era vagamente assegnato. Questi vaghi programmi di vita si affollavano nella mente di Clelia nelle lunghe ore passate a letto prima di addormentarsi. All'ultima visita di Enrico, quella passività a cui aveva costretto i suoi sensi la facevano correre a una serie più triste di pensieri. Quella notte, quando Enrico si fu allontanato senza dirle una parola, Clelia si era sciolta in lacrime e aveva ancora una volta almanaccato intorno a puerili progetti di fuga. Le pareva facile, in quel momento, di poter cambiar vita, adattarsi a fatiche pesanti, da serva, di poter piegare il suo corpo alla sofferenza. Ma rapidamente il pensiero le tornava a sua madre, a suo padre. Se ricordava la loro altera dignità, trovava impossibile entrare in un giro di rapporti con gente sconosciuta. Ora Laura andava a casa Cannavale anche quando non c'era Enrico. Si fermava a lungo, qualche volta, a leggere, a suonare. Dal giorno in cui Clelia aveva sorpreso Laura con Enrico in quell'atteggiamento che le era parso molto intimo, vedendola non riusciva più a nascondere il suo orgasmo. Laura arrivava di sorpresa. Il guercio apriva al primo picchio. I cani, vedendola, alzavano appena il muso e poi le si facevano intorno, scodinzolando festosi. Clelia tentava di essere premurosa con lei, ma non le riusciva di assumere il contegno corretto che avrebbe desiderato. e venivano toni cattedratici, alternati con altri sommessi, quasi umili. Quando si allontanava per lasciarla sola, faceva una marcia di traverso a passettini rapidi, con le braccia raccolte intorno alla persona, come se avesse dovuto attendere ordini improvvisi. Quando Laura rimaneva sola e si udivano nella grande casa le prime note del piano, musiche difficili, con temi non chiaramente melodici, la sua anima si riempiva di paura. Le note percorrevano le stanze e i corridoi come avessero antica familiarità con la casa. C'erano frasi musicali che balzavano dalla tastiera con un ritmo vittorioso per denunziare il loro potere. Clelia si aggirava per le stanze, inseguita dalle note, e la sua trepidante fantasia metteva in rapporto quella musica con colloqui che, lei assente, avvenivano tra Laura ed Enrico. Nella sua umile anima si andava convincendo che il dono che lei aveva fatto al suo amante era di piccolo valore di fronte alla ricchezza di grazia e intelligenza che Laura poteva offrirgli. Clelia non aveva nessun dubbio sulla natura dei rapporti tra Enrico e Laura. Così le vaghe speranze che aveva nutrito fino a qualche mese prima perdevano ogni potere di persuasione nella sua mente. Il sentirsi decadere alla condizione di strumento per frettolosi e casuali piaceri le aveva riportato nell'anima anche la paura del peccato. Non sentiva più, come nei primi tempi, se stessa vittima di una sorte sciagurata. Non aveva più l'alibi intimo, così valido per lei, dell'amore sofferenza, dell'amore croce. Il suo rammarico, il suo desiderio insoddisfatto, le facevano riconoscere una partecipazione volontaria in quel legame. Aveva tentato di pregare, ma si era accorta che le mancava per la preghiera l'indispensabile aiuto della speranza. L'ufficiale giudiziario Filoteo Natalizio, accompagnato dal nipote Luca Marano, da Pasquale Ficetra e Antonio Caruso, un giorno di giugno, verso le 5, picchiò al portone di casa Cannavale. Il guercio aprì il nottolino, guardò in faccia lo sconosciuto e richiuse. Filoteo Natalizio si aggiustò sul naso gli occhiali che minacciavano sempre di cadergli, si diede una energica lisciata ai baffi, collocò in maniera più stabile il cappelluccio che gli stava di sguincio sulla testa, afferrò il battente e picchiò di nuovo. Il guercio mise la testa nello sportellino e chiese ruvidamente: «Che volete?» «La legge!» disse Filoteo Natalizio, sventolando nella breve apertura una carta. Dietro le spalle dell'usciere, il guercio aveva visto il viso di Pasquale Ficetra, padre di Elettra, che faceva movimenti desolati col capo per fargli comprendere che non poteva impedire il loro ingresso. Zelone allora aprì il portone, fece entrare i quattro uomini e richiuse rapidamente. I cani stavano in un angolo, ringhiosi. «Non c'è Don Enrico», disse il guercio. «E se lui non c'è, che ci andate a fare sopra?» «Ma con queste non si scherza», fece il Natalizio. «Sapete leggere?» «No, allora non potete capire. Questa carta apre tutte le porte». «Io ho l'ordine di non far salire nessuno», ribatté il guercio alzando la voce. Due cani da pastore si mossero ringhiando. Il guercio, senza voltarsi, fece uno scarto improvviso a destra e i due cani si lanciarono addosso ai quattro rappresentanti della legge. Luca Marano, con un balzo, raggiunse la scala seguito da Pasquale Ficetra e Antonio Caruso. La posizione più elevata consentiva ai tre di offrire le scarpe all'assalto dei cani. Ma l'ufficiale giudiziario, per un movimento falso, aveva rischiato di cadere e aveva perduto gli occhiali. Si era chinato sul pavimento, razzolando con le mani, e i cani gli avevano addentato le chiappe. Un cucciolo più ostinato aveva tirato i calzoni fino a produrre un lungo strappo, Un lembo di stoffa rivelava il bianco incerto delle mutande, ma due pedate del guercio e un mugolio gutturale che pareva una parola d'ordine rimandarono i cani ringhiosi in fondo al cortile. L'usciere aveva dato un urlo, sentendosi i denti nella carne, e ora pronunciava terribili minacce con voce flebile e stizzosa. Aveva i pomelli arrossati e gli occhi miopi vaganti. Il nipote, Luca Marano, aveva intanto raccolto gli occhiali e li veniva ripulendo dalla polvere con il rovescio della giacca. Il natalizio li inforcò. Il cortile e le persone scomparse rientrarono nel circolo della sua luce. Rovinati un paio di calzoni. Una leggera ferita, oltraggio a un pubblico ufficiale. Vedrete voi, disse con crudele calma, rivolto al guercio, il quale era tornato nel fondo e si era messo a sedere calmo, con un filo di paglia in bocca. Dico a voi, fece il natalizio, come vi chiamate? Io devo sapere il vostro nome. Il guercio succhiava il suo filo di paglia e sorrideva con la sua aria stolida. Ogni tanto emetteva un mugolio gutturale per impedire un ritorno offensivo dei cani. Pasquale Ficetra si avvicinò all'usciere e gli mormorò qualche cosa all'orecchio. «Pazzo? Questo lo stabilirà il tribunale. Come hai detto? Domenico Gagnele?» «Domenico Gagnele», ripeté e prese nota su un foglio di carta. I quattro si avviarono. In alto, in una delle finestre che correvano lungo il corridoio, s'udì una imposta sbattere. Clelia, richiusa la finestra, passeggiava nervosamente nello stretto corridoio. Si volgeva a sinistra e a destra, come avesse l'assurda speranza di veder già tornare Elettra, che era andata a chiamare l'avvocato Colonna. Elettra, visto il padre che accompagnava Filoteo natalizio, aveva intuito la ragione dell'insolita visita. Dall'altra parte della casa, dove era Laura, attraverso gli usci chiusi, giungeva a tratti il suono del pianoforte. Clelia era in un mare di angustia, come se quello che stava per accadere dipendesse da lei. Sperava che tutto potesse essere rapidamente chiarito e che i visitatori andassero via prima che Laura potesse rendersi conto dell'accaduto. «Siamo venuti a compiere uno spiacevole dovere, signorina. Dobbiamo eseguire un pignoramento», disse il natalizio, salutandola. Clelia ebbe un gesto di sgomento. Poi disse, con un tono inaspettatamente minaccioso, «Ma l'avvocato è assente. Prima di fare qualunque cosa, voi dovete attendere l'arrivo del nostro legale». «Mi dispiace, signorina, ma l'assenza del proprietario non costituisce un impedimento». E il natalizio citò alcuni articoli del codice con tono trionfale. Antonio Caruso arricciò il naso fungoso e fece uno schiocco con le labbra per dire che la risposta aveva colto nel segno. Erano entrati in un salotto e il nipote del natalizio guardava i mobili disposti lungo le pareti. Pareva volesse giudicare quale fosse il caso di pignorare. Il ciabattino aveva gli occhi sgranati dalla meraviglia nel vedere accumulate in così ristretto spazio tutte quelle ricchezze. «Certo», disse l'usciere, «per una così piccola somma, tenuissima direi, non si dovrebbe profanare». «Dura lex, sed lex, signorina». E il natalizio ebbe un sospiro, allargò le braccia desolato e aggiunse, «Per ora facciamo il verbale». Si mise a sedere a un tavolino accanto alla finestra, dopo aver fatto una complicata manovra che rassomigliava a una serie di inchini per una cerimonia propiziatoria. «In nome, addio, eccetera, eccetera, eccetera», veniva dicendo rapidamente a intervalli il contenuto del suo verbale. Si arrestava di tanto in tanto, come se l'evidente nervosismo di Clelia avesse avuto il potere di eccitare anche lui. «È un fogliolino, signorina, una piccola obbligazione, rilasciata a un nominato Astarita Vincenzo di Napoli 11 mesi fa. Da allora è passata in 8 mani, poi è arrivata a destinazione. una distrazione, senza dubbio, una dimenticanza da parte di Don Enrico. Ma questi pezzi di carta hanno una memoria infallibile. Poi riprendeva la lettura. In presenza di Antonio Caruso e di Pasquale Ficetra. Dalla stanza della biblioteca giungeva fievole ma distinto il suono del piano. Laura suonava un'aria di opera popolare e i due testimoni ammiccavano per dar segno di averla riconosciuta. Anche l'usciere si arrestò ancora un attimo e disse, rivolto a Clelia, «Non puoi immaginare quanto io sia dolente in una così nobile casa. La musica!» E fece un gesto per significare che avrebbe avuto molte cose da dire sulla musica se non fosse stato costretto a una faccenda tanto volgare. Il nipote Luca Marano si era appoggiato al davanzale della finestra e guardava con intensa attenzione la scena. Era un ragazzo di forse 20 anni, agile e aitante, di chioma nera e di fresco incarnato. Aveva una testa di delicato disegno, fronte pallida e alta, un naso asciutto tendente leggermente all'aquilino e sulle guance ben rasate il segno di una barba già vigorosa. Portava un colletto altissimo, chiuso perfettamente, che lasciava spuntare alla base appena un filo di cravatta dal colore vistoso, inadatta al suo vestito nero. Sulle spalle la giacca tendeva al rossastro per l'uso e per i danni che l'acqua aveva fatto su una stoffa di cattiva qualità. I pantaloni gli scendevano a onda sulle vecchie scarpe. «Luca!» chiamò a un tratto l'usciere. «Vuoi rileggere? Tu sai, i miei occhi e con questa luce. Io direi che queste case antiche hanno grandi pregi, ma sono case notturne. Ora procediamo. Sarà bene, Luca, che scriva tu». Aveva ceduto il posto al nipote e si era avvicinato a un armadio di noce che era costituito nella parte superiore da uno scrigno intagliato con legni colorati. Clelia fece un balzo e disse «Quello no, quello assolutamente no, è in casa da 200 anni». «Ma signorina», disse il natalizio sorridendo benevolmente, «non ci saranno movimenti fisici, direi. Veda», aggiunse, aggiustandosi gli occhiali e mettendosi due dita sulla fronte. «Nella profonda sostanza, la faccenda sta in questi termini. Da una parte c'è l'avvocato Cannavale. Egli, firmando questa cambiale di 5.000 lire, ha inteso cedere una parte del suo patrimonio al signor Astarita. Dall'altra c'è il patrimonio. Il signor Astarita prende possesso per mio mezzo della cessione ottenuta. Io sono il tramite che rende effettiva l'intenzione. Io, in fondo, non sono che l'esecutore della volontà dell'avvocato Cannavale. Domando se il ragionamento non è esatto. Dunque, Luca...» Il giovane sorrideva vagamente e di tanto in tanto chinava il capo sui fogli. «Presumibile valore», diceva il natalizio. E qui si udì uno scalpiccio di passi nel corridoio e l'avvocato Carlo Colonna, affannato, sudato, respirando profondamente, inchinandosi, sventolando il cappello, piombò nella sala. Si buttò a sedere in una poltrona, chiedendone il permesso con una complicatissima mimica a Clelia, la quale, vedendolo, era tornata calma. Ora Elettra parlava in un angolo con suo padre. Di fronte alla sorda furia della figlia, che lo incalzava con un fiotto di ingiurie sibilate a bassa voce, Pasquale si ritraeva verso la porta facendo umili gesti di giustificazione. Don Carlo Colonna si stirò il farsetto sulla pancia prominente, rimise in ordine la camicia e l'orlo delle mutande. Poi disse con voce solenne: «Voi sapete, Don Filoteo, che in assenza di Don Enrico Cannavale io sono il suo rappresentante legale? Lo sapete? Bene. È una mancanza di riguardo da parte vostra. Si sarebbe provveduto. Si poteva provvedere per evitare lo scandalo. Io eseguo, Don Carlo. Mi è stato passato l'effetto dal notaio Iannaccone. Io non dovevo che constatarne la regolarità. Vediamola, questa regolarità. Quando ebbe in mano la cambiale, la guardò da tutti i lati. Poi balzò in piedi con una elasticità insospettata nel suo corpo piccolo e rotondo. E voi la chiamate regolare, questa? Data 8 agosto 1920. Ci sono stati due decreti sull'aumento della tassa del bollo. L'effetto doveva essere rinnovato due volte per essere valido. Questo è un pezzo di carta, Don Filoteo. Io mi oppongo formalmente. Il natalizio taceva, si grattava la testa con moto calmo e meditativo, poi disse: «Io eseguo. È il notaio Iannaccone che mi ha dato l'ordine. È lui il responsabile». «Ma voi? Non c'entrate voi? Non avete voi il dovere di constatare le irregolarità? E poi veniamo a un altro aspetto della questione, la procedura. Voi dite: io ho eseguito un ordine. Ma ci sono delle norme inderogabili che voi siete tenuto a conoscere». Don Carlo passeggiava avanti e indietro, agitando le mani, piegandosi a destra e a sinistra, come volesse chiedere il consenso degli astanti. Riprese: «Voi vi siete introdotto in questa casa con la violenza». «Don Carlo, voi scherzate!» rispose il natalizio. «Non scherzo! Ho parlato con il Guercio, con Domenico Ganiele, detto Zelone. Mi ha assicurato che voleva impedirvi l'ingresso». «Non ha tentato. Non ha detto nulla». «Non ha detto nulla. Ma ha fatto qualche cosa. Voi avete uno strappo sui pantaloni e un morso sulle natiche. È lì la prova dell'ostacolo frapposto». «Ma sono stati i cani. Semmai si può dire che mi ha aizzato contro i cani». «Certamente, lo ha fatto. Il Ganiele ha delegato i cani a impedirvi l'accesso alla casa e voi, nonostante l'impedimento, avete continuato il vostro cammino». «Ma io dovevo oppormi all'impedimento bestiale. Io dovevo superarlo», disse con stizza, ballonzolando Filoteo natalizio. «Ah no, voi siete un ufficiale giudiziario e non un agente della forza pubblica. Voi avreste fatto il vostro dovere verbalizzando l'impedimento o chiamando i carabinieri. Questa era la procedura». Laura era apparsa nella stanza. Aveva indugiato qualche attimo dietro l'uscio socchiuso e aveva seguito gran parte della scena. Il capannello che si era formato intorno all'avvocato Colonna e al natalizio si aprì. Tutti ebbero un movimento spontaneo, a ritroso, verso la parete. Si erano divisi in due ali come per la figura di una danza. Laura aveva la sua borsa e un libro sotto il braccio. Evidentemente si preparava ad andarsene quando aveva udito quell'insolito tramestio. Guardò per un istante i presenti senza parlare, poi disse lentamente, rivolta a Clelia: «Potevi farmi avvertire? Non l'ho fatto per non disturbarvi. Si trattava di una cosa noiosa». «Era una cosa grave, invece», disse Laura con tono fermo. Clelia aggiunse imbarazzata: «Io non potevo supporre...» «In fondo la questione», disse l'avvocato Colonna. «Ho sentito e ho capito tutto», fece recisamente Laura. «Di che somma si tratta?» 5.000, signorina», disse il natalizio. «È una piccola somma. Si può pagare anche immediatamente». «Madonna Laura, io mi permetto di darvi un consiglio», disse l'avvocato Colonna. «La cambiale non è regolare nella forma e solo il tribunale può decidere». «Ma a vostro parere come deciderebbe?» «Beh», fece Don Carlo imbarazzato, «allora vale la pena di pagare subito». Si avvicinò al tavolo dove era seduto Luca. Il giovane si alzò di scatto. Laura disse: «Lei ha da scrivere?» Luca si affrettò a offrirle una penna. Laura aprì la borsetta. Ne trasse il libretto degli assegni e ne riempì uno per 5.000 lire. Poi disse: «Devo consegnare a lei?» E lo guardò fermamente negli occhi. Poi lo sguardo rapidamente scese a tutta la persona e Lucas lo sentì addosso, inquisitore, sprezzante, ed ebbe un'improvvisa vampa nelle gote. Ma quando i suoi occhi incontrarono di nuovo quelli della donna, gli parve di vedervi un sorriso. Trovò il modo di balbettare: «Non a me, io non c'entro. All'ufficiale giudiziario». Laura si mosse per dare l'assegno a Filoteo Natalizio, ma la fermò a mezza strada l'avvocato Colonna. «Prego, signorina, a me. Passo io dal notaio Iannaccone». Sandro Lombardi ha letto Le terre del Sacramento di Francesco Iovine, a cura di Fabiana Carobolante, con Jacopo De Bertoldi, Luigi Iavarone, Diego Marras e Chiara Valerio. Tutte le puntate su Rai Play Radio. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.